noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Diego Armando Maradona pennella col suo sinistro, intuendo l'uscita di Orsi, la rete del 3-0, mandando il pallone a 20 centimetri tra l'incrocio dei pali. Stragoscia esce molto bene ancora una volta, porta vuota, però Mertens può pensare, ci pensa, lo fa partire! Lo fa partire! E segna l'ennesimo capolavoro assoluto! Everybody sees me. Mi sono girato e ho visto il portiere che andava un po' lento alla porta. E ho visto il spazio e ho detto vai, tiriamo. complimenti, però ritengo che sia stato più difficile quello di Diego, se non altro perché il portiere era molto più vicino alla porta, quindi gliel'ha dovuto mettere proprio con i giri contati. Però a Mertens anche secondo me non è d'accordo, che sia stato più difficile quello di Diego. Lo vedo che sorride. Il mio era più lontano, Beh, Dries Mertens come Maradona mi sembra un po' eccessivo. Non bestemmiamo in chiesa, rischiamo delle denunce. 800 24 00 24 è il numero verde, diteci voi. Però ieri sera lo ha ricordato da vicino, quantomeno per quel gol che ha appunto un precedente storico, stagione 84-85. Sempre contro la Lazio Maradona segnò un gol simile. Ovviamente oggi i tifosi del Napoli possono sognare e adesso ne parliamo. Innanzitutto, mentre saluto Giorgio De Luca, il nostro autore che è a Milano, poveretto, insieme a Gianmarco Ferroranto che è a Milano, poveretto. Io sono a Genova al Salone Nautico, splendida giornata di sole, invidiatemi pure. Con me Andrea Roccabelli in regia, Valentina Ternullo che è qui a darmi una mano, molto spaventata perché di sport sa poco o niente, però ci siamo noi. Allora, nella porta del Napoli, della Lazio, in quella stagione 1984-85 c'era un nostro grande amico che risponde al nome di Nando Orsi. Ciao Nando. Ciao, buongiorno a voi. Buongiorno. Raccontami minuziosamente sul pallone di Maradona. No, però il telecronista di quel periodo che ho sentito, che era Italo Cugna, mi sembra. Italo Cugna disse l'ha messa a 20 centimetri dall'incrocio dei pali. Se fosse stata 20 centimetri più su, avrebbe preso l'incrocio dei pali, adesso non staremmo qui a telefonarci e forse il Napoli avrebbe soltanto avuto una protesta nella sua carriera, no? Quella di Mertens, anche se poi Maradona fece un gol quasi simile a Giuliani con il Verona. No, detto questo, penso che siano due gol diversi, non paragonabili. Uno, perché le posizioni erano sicuramente diverse; due, perché io ero un pochino più vicino alla porta, Stracoscia era più lontano, aveva fatto già una parata in uscita, quindi era rimasto un po' nella terra di nessuno. Forse Mertens ha visto veramente che Stracoscia è tornato indietro un pochino lentamente perché pensava che l'azione fosse finita. Io invece, quando ho visto Maradona calciare, devo dire la verità, ero un po' rassegnato perché lo sapevo che lui faceva quel pallonetto, però non pensavo che potesse andare a finire così. Infatti poi dopo sono finito dentro la porta come un pesciolino nella rete. E la cosa brutta è stata proprio quella. Mi viene in mente un altro nostro amico portiere, Giovanni Galli, Italia-Argentina in Messico, te lo ricordi? Sì, lui non si è mosso, certo. Perché proprio all'andata Maradona mi fece un gol quasi simile a Giovanni Galli, con la puntina uguale. Io pure rimasi così fermo, non ti dico come si dice in gergo nostro dei portieri, però rimasi così. Siamo in fascia protetta, ok, va bene, mi arrendo. Siamo in fascia protetta, cioè quando tu abbassi un po' le cosce rimani un po' così, capito? E quindi i portieri rimangono lì perché ti prendono un po' il tempo, e quindi nonostante tutto tu non hai neanche il piede di spinta per andare a prenderlo. Detto questo, due gol fantastici. Secondo me quello di Maradona molto più spettacolare. Cioè, quello di Mertens è bello, bellissimo. La differenza che tra Maradona e Mertens, Maradona Giordano Careca e questo tridente che comunque fa sognare legittimamente i napoletani. No, bisogna mica sminuire, però Se tu paragoni Mertens a Maradona il gol, no, paragoni con Maradona non esistono. Esatto, capito? Facciamo un torto a Mertens, che è un grandissimo giocatore, però quelli sono giocatori di, cioè, sono fuori classi. Maradona, i Messi, Cristiano Ronaldo, i Pelé, sono giocatori che, cioè, non sono paragonabili a nessuno, aspetta, perché adesso sento di paragonarmi Messi, aspetta, così. Io non litighiamo, Nando, ti voglio bene, sì. Non paragonarmi neanche Messi a Maradona. No, quando ma Messi per dire, alzerà la coppa con la maglia albiceleste, hai ragione. No, quello è vero. No, quello è vero. Però c'è comunque un tuo amico. Abbiamo un tuo amico, sì, in linea. Giocava con te, quella partita non c'era, però giocava il tuo compagno di squadra, Bruno Giordano. Ciao, buon pomeriggio. Ciao Nando. Ciao Bruno. Buon pomeriggio. Ciao Bruno. Vabbè, allora facciamo così. Nando Orsi che intervista Bruno Giordano. No, ma a parte che io lo vedo spesso e lo sento, quindi ci siamo parecchio in contatto. Lo so. No, però quell'annata lì, Bruno, se ti ricordi, eravamo anche una buona squadra, no? Poi dopo invece andammo, sì, a fare 15 punti, e quindi però c'era una squadra, ma non c'era la società. Bravo, hai detto bene. Soprattutto su un campionato a 16, se sbagli, esatto, con i due punti sei morto. Esatto. Oggi sì, giorno. Sì, sì. Puoi fare delle rimonte stile Crotone l'anno scorso, perché con 20 squadre, con il livello che c'è, puoi anche recuperare. Quando sbagli un campionato a 16, un girone, difficilmente poi recuperi. Sì, quest'anno mi pare pure peggio, ragazzi. Mi sembra pure peggio dell'anno scorso. Cioè il distacco, il divario che c'è tra quelle della parte destra e quelle della parte sinistra, mi sembra veramente un abisso. Sì, però almeno. Cioè il campionato di Serie A era caratterizzato anche da una grande lotta per la retrocessione, che fino all'ultima giornata teneva un po' in ansia. Esatto. Forse quest'anno, avendo 5-6 squadre che fanno un punto, due punti, o non li fanno per niente, può darsi che arrivano fino all'ultimo, che ancora questa lotta di retrocessione, nonostante poi i punti siano molto bassi, perché ci salverà 32, 31, non so, sì, a quanti. Sì, forse fino alla fine, al contrario degli altri anni, dove... Dimmi. Ma la lotta può riguardare la terza posizione, perché l'ultima e la penultima l'anno scorso pure, a 4 mesi dalla fine. Poi c'è stata questa rimonta straordinaria anche per demerito dell'Empoli. Quattro mesi dalla fine, a Natale era tutto finito. Ci sono squadre che hanno il Genoa, ha smontato la squadra. Siamo a Genova, l'anno scorso il Genoa, e non ho paura di dirlo qui da Genova, smontò la squadra, pagò Juric. Ok, però smontò la squadra e consegnò un qualcosa all'allenatore successivo. Quindi sono campionati, non voglio dire falsati, ma quasi. Anche perché così, secondo me, non si fa tanta strada. Io però adesso a Bruno Giordano voglio chiedere una cosa che poi va sulle agenzie. Ok. Scudetto Napoli. Maradona, Giordano, Careca, Insigne, Mertens, Calejon, Milik, scegliene tre. Allora, che paralleli vedi, Bruno? Quante chance ha il Napoli di vincere questo scudetto? No, chance ne ha, però anche se vedo la Juventus ancora superiore. Diciamo che Napoli non può permettersi di sbagliare la partita, nel senso che deve giocare sempre bene. Partite sporche non le sa vincere, al contrario della Juventus, che è abituata a vincere anche qui, giocando male, ma con la prodezza di Higuain piuttosto che di Palo Mancio vince. Io credo che sarà determinante anche la Champions. La prima squadra che mollerà la Champions avrà più energia anche per tuffarsi nel campionato, perché se dovesse andare avanti anche in Champions, parlo di quarti di finale o semifinali, il Napoli non credo che ha una rosa attrezzata per poter andare sulle due competizioni, al contrario della Juventus. Sì, vedo ancora leggermente la Juve, però il Napoli è la squadra che può insidiare più di tutto. Certamente, hai ragione, il Napoli sta facendo di tutto, perché secondo me Sarri ha fatto un po' di casino con il turnover. E con lo Shakhtar Donetsk non è andata benissimo, Nando. Sì, non è andata bene, anche perché io pensavo il contrario, cioè che con lo Shakhtar mettesse la formazione bassa, col Benevento vincesse 6-0 o 4-0, 3-0, cambia poco, non conta niente. Quindi, no, tra l'altro ha perso contro lo Shakhtar, non è che ha perso contro il Manchester City, che dice va bene, abbiamo sono due squadre, Manchester City e Napoli, e poi ci sono le altre due, mi sembra Shakhtar e il Feyenoord. e quindi tu hai perso con lo Shakhtar, quindi già sei obbligata a come squadra andare a vincere con lo Shakhtar Donetsk, che diventa una partita fondamentale, capito? E quindi un po' rischia, perché arrivare terzi in un giro così, secondo me fallisci di un obiettivo importante, perché l'obiettivo del superamento del turno secondo me è fondamentale. E significa anche grano che entra nelle casse. Significa anche grano che entra nelle casse. Ragazzi, ancora una cosa, abbiamo parlato del Napoli, un parere sulla Lazio che ieri sera è stata partita strana, Lazio passata in vantaggio, poi si fa male i difensori, poi la Lazio, secondo me, continua a ripeterlo, e Pardo, che oggi è contumace, è d'accordo con me normalmente, è una squadra molto sottovalutata, molto solida, molto ben allenata, probabilmente non tanto profonda a livello qualitativo, a livello di organico, di personale, però io tra quelle che lottano per le prime quattro posizioni, facciamo per terzo e quarto posto, io ce la metto insieme al Milan, all'Inter, alla Roma, non so voi. Bruno? No, ci può stare, tanto la Lazio non può sbagliare nulla, ha una rosa attrezzata nel modo giusto, però in difesa abbiamo visto che anche la mancanza di Otten, che non è stato rimpiazzato, poi alla lunga le paghi queste situazioni. Vedremo, anche la Lazio, al contrario della passata stagione, ha una Coppa Europa da giocare. L'altro anno abbiamo visto che è arrivata un po' col fiato grosso senza quella competizione. Speriamo che possa andare tutto bene, però vedi, appena ti capita una cosa contraria, come è stato ieri, con qualche infortunio, va in grande difficoltà. Io me lo auguro che possa arrivare nelle prime quattro posizioni, anche se effettivamente credo che la rosa della Roma e dell'Inter soprattutto abbiano qualcosa in più. Milan no? Il Milan, bisogna vedere il Milan quale, perché il Milan dall'inizio della stagione ad oggi ha incontrato una squadra vera, che è la Lazio, che le ha buscate. Per il resto ha incontrato delle squadre medio-basse. Mm-hmm. Grazie Bruno! Grazie a voi, ciao Nando, buongiorno Bruno. Nando, toccate la risposta. No, nel senso che io penso che la Lazio sia una squadra veramente imprevedibile, forte, che abbia un grande allenatore. Abbia un grande allenatore che è cresciuto in maniera esponenziale dall'anno scorso, ha battuto la Roma in Coppa Italia. Lì è diventato un allenatore vero, praticamente. Quello che mi preoccupa è che quando dicono che la Lazio negli 11-12 è una grande squadra, sì, ma il problema è che alla prima giornata c'hai gli 11-12. Poi dopo la formazione si modifica, perché hai le coppe, hai il campionato, hai tre partite in una settimana. Quindi se non hai giusti cambi, e poi dopo la sfortuna si accanisce, perché si fa male Wallace e ieri tutti e tre difensori, quindi già un problema, capito? Quindi per quello che come organico nei 12-13 è brava, ma nei 12-13 è impossibile pensare che possano giocare tutti gli stessi. No, lo so, è quello che ho detto io, è un po' poco profonda, però giocatori come De Vrij, come Felipe Anderson, che è un divago, come Milinkovic-Savic, secondo me è un fenomeno, Parolo io lo vorrei sempre, Immobile io lo vorrei sempre, dunque in quei 12 secondo me assolutamente competitiva. Grazie Nando! Ciao ragazzi, buona giornata. Ritardo clamoroso sul traffico, mi stanno già sgridando, traffico. Subito dopo l'intervallo la lotta continua! Tutti convocati. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it col TH. Vi presento. Convocati. Parlato con Gonzalo e gli ho solamente detto che ci sono momenti, a 30 anni, non è che a 20 anni, ci sono momenti in cui come ora, che ha fatto in 5 partite, ha fatto solamente 2 gol, ma intanto stasera vediamo il positivo, che il gol che abbiamo fatto è stato perché lui ha attaccato bene l'area, cosa che domenica Sassuolo non ha quasi mai fatto, e nelle altre 3 situazioni è andato vicino al gol lui. Piangersi addosso non serve a niente, i gol arriveranno, già stasera ci è andato più vicino di domenica scorsa, quindi si è dato anche da fare in fase difensiva, e in fase offensiva ha fatto le buone cose. Allora, prima eravamo in tre a ballare l'Aligalli, adesso siamo in due a ballare l'Aligalli. Rimangono Napoli e Juventus, cosa strana. No, stavo giusto pensando che qui a Genova, al Salone Nautico, avevo voglia di scendere le scale e andarmi a prendere un cono di fritto, cosa che Higuain non può permettersi, come sottolinea Allegri usando altre parole. Il mio amico Giampiero Timossi una volta, quando mi voleva bene, veniva qui a trovarmi. Io ti voglio sempre bene. E allora perché non sei qui con me? Beh, tornerò presto. Il tuo amico Timossi tornerà presto. Higuain non può più permettersi un cono di fritto. Probabilmente qualche duno se l'è concesso quest'estate, perché non mi pare che la forma fisica sia eccellente. Esatto. Un giocatore che sta vivendo sicuramente un momento difficile, come ha sottolineato Allegri, e come abbiamo visto anche dopo il gol di Matic. Ho fatto attenzione al, mi pare che tutti siano corsi ad abbracciare Mandzukic, ma non ho visto Higuain. Ci sono alcune immagini sul gol di Mandzukic che sono significative, insomma, mai visto un compagno così triste, perché sì, attenzione però. Allora Giampiero, tu sai bene, come sanno bene gli addetti ai lavori, ma non è nemmeno un segreto, che Mandzukic nello spogliatoio della Juventus si siede laggiù in fondo su quelle due poltrone. Una è di Buffon e l'altra è sua. Questo vuol dire leadership. Su quella poltrona non sta seduto Higuain e nemmeno Dybala, stanno Mandzukic e Buffon. Beh, ma è giusto così, vuol dire che in questo è stato bravissimo, bisogna dargli atto, Marotta, quando nel valzer degli attaccanti che potevano arrivare, vi ricorderete, si era parlato a lungo della possibilità di portare Dzeko alla Juventus e non Mandzukic. Invece, al di là dello straordinario risultato di gol ottenuto l'anno scorso dall'attaccante della Roma, credo che la scelta sia giusta. Questo è quello che serve alla Juve. Mandzukic, il giocatore che serve indubbiamente alla Juve per fare non soltanto un salto a livello tecnico, ma anche caratteriale. E quindi è giusto che Mandzukic abbia la poltrona a fianco a quella di Buffon. Abbia la poltrona laggiù in fondo, il viceré, facciamo così. Senti, è già una corsa 2? Sì, è una corsa 2. È un campionato probabilmente spaccato in quattro. Pensavo di stare guardando le partite, Roma, Juventus e Napoli fanno e faranno dopo 5 giornate un campionato a parte. Lo scudetto. Perché non ci metti la Lazio? Non ci metto la Lazio perché alla fine non ha una qualità sufficiente nella rosa per poter sostenere la forza di Napoli-Juventus. È vero che la Lazio ieri sera ha dato una partita straordinaria, ed è vero che ha perso, Inzaghi ha dovuto cambiare modulo tre volte durante la partita, ha dovuto inventare una difesa che era difficilissima da inventare, quindi questo però non può limitare, può sottolineare i meriti di Inzaghi e della Lazio, che è una squadra divertentissima, però probabilmente la Lazio si candida ad essere la prima concorrente del gruppo, del secondo gruppo. Mi sembra che davvero non possa in questo momento inserirsi. No, non nel primo gruppo. Primo gruppo sono Juventus e Napoli, questo lo sappiamo tutti quanti, salvo Allegri che sentiamo, perché dice no, non è una corsa 2, beh, però lui fa il suo lavoro, l'allenatore della Juventus. Ma fanno paura. Il Napoli è una squadra che lotta per lo scudetto, l'ha dimostrato in questi anni, è cresciuta molto, è una squadra che gioca molto bene. La Juventus gioca in modo diverso, e ha come Napoli antagonista, come Milan antagonista, come Inter antagonista, come Roma antagonista, e quindi il campionato sarà lungo, bello, equilibrato, e sappiamo che abbiamo queste squadre da battere. Noi piano piano, con calma, cerchiamo di vincere una partita alla volta per cercare di fare quei punti che ci permettono di arrivare al settimo scudetto, quindi su questo stiamo lavorando, perché dobbiamo migliorare molto. Questo era Allegri, dunque lui dice non è una corsa 2, in realtà lo è, nella secondo gruppo stanno le milanesi, sta la Roma, secondo me sta anche la Lazio. Dimmi Giampiero. Sì, sono d'accordo con te. Però l'unica squadra che a inizio campionato poteva in qualche modo forse impensierire, almeno in quelle che erano le previsioni, Juventus e Napoli, era l'Inter, che aveva una squadra già molto forte l'anno scorso. La campagna acquisti dell'anno scorso dell'Inter era stata una campagna acquisti importante. Quest'anno trovava anche un allenatore assolutamente competitivo con una grande voglia di rivincita. Le altre no, perché la Roma, credo che lo sfogo di Dzeko dopo la partita di Champions abbia mostrato quella che è la palese evidente della difficoltà, la palese difficoltà della Roma. La Roma può giocare solo in un modo, se può giocare con questo centravanti. Dzeko deve essere servito dalle fasce, non a caso con Florenzi o Bruno Pérez la cosa funziona, e deve realizzare gol che solo lui sa fare. Ma certo, ma a un giocatore come Dzeko devi dare le munizioni, se no diventa... Esatto, ma non ha, però la Roma, al di là di questo schema abbastanza scontato, non mi pare che abbia grandi alternative in questo momento, e non credo assolutamente, qui arriviamo all'ultimo gruppo, non credo assolutamente che una squadra come il Benevento possa essere un test in qualche modo indicativo. No, c'è un gruppo di squadre in fondo alla classifica che davvero in qualche modo in questo momento sono imbarazzanti. Sono imbarazzanti per mille motivi, però spero sempre, perché mi è piaciuto tantissimo il miracolo dell'anno scorso, il lavoro dell'anno scorso, spero che il Crotone possa uscire da questa situazione, però Benevento, Crotone, ma laggiù si lotterà nel fango fino alla fine. Guarda la classifica al contrario: Benevento 0, Crotone 1, Verona, Genoa, Udinese 3, Sassuolo, Spal 4. Lì è battaglia nel fango, battaglia di trincea, e si andrà avanti così fino alla fine. Dopo 5 giornate di campionato abbiamo questo tipo di situazione, che è il vizio di forma del nostro campionato. E poi ditemi pure che non sono maturi i tempi per una Superlega europea, ma questo discorso ci porta molto lontano. Ma restiamo qui, però è quello che pensavo anch'io, e in quest'ottica probabilmente qualche soddisfazione quest'anno potrà arrivare dall'Europa League, invece, almeno fino a quando non scenderanno un po' in campo le big della Champions. Però insomma i segnali quest'anno che sono arrivati all'inizio dell'Europa League sono incoraggianti. Io vorrei davvero che una squadra italiana vincesse finalmente l'Europa League. Ma lo vogliamo, è il nostro desiderio proibito ormai da molte stagioni. Un'ultima cosa, Giampiero, visto che siamo a Genova, visto che tu sei genovese, visto che non sei venuto a farmi compagnia al Salone Nautico, dammi una battuta su Genoa e Samp. La Samp abbia tutte le carte in regola per diventare la sorpresa di questo campionato. È imbattuta, ieri Giampaolo ha esagerato un po', ma forse ha fatto bene, anche questo fa parte di una programmazione del turnover. Poteva fare qualcosa di più contro il Verona, che è una delle squadre assolutamente più debole di questa stagione, però ha conquistato un buon punto. Il Genoa è in una situazione completamente diversa, mentre al Genoa purtroppo si vede il lavoro di Juric, nel senso che anche ieri sera la squadra è stata assolutamente deludente. Credo che abbia dei giocatori con delle potenzialità importanti, non penso soltanto a Pellegrini, penso a Tarabat, penso a Centurion, però queste potenzialità si devono in qualche modo esprimere, e soprattutto serve un gioco. Io ieri sera ho seguito anche la partita del Genoa e non ho visto nessun gioco nella squadra di Juric, quindi è probabile, io credo che non durerà moltissimo il rapporto tra Juric e il Genoa, probabilmente qualcosa cambierà dopo la partita contro l'Inter, e credo che questa almeno per una volta possa essere una soluzione giusta. Grazie Giampiero, alla prossima. Ciao, ti abbraccio. Ciao Giampiero Timossi, andiamo con la borsa di corsa, fa anche rima, e poi torniamo. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Rieccoci. È atterrato Pierluigi Pardo, impegnato sul volo dalla Luna alla Terra. È tornato con noi. Sono atterrato a Bari, in una giornata bellissima. Come va, ragazzi? Pensavo a Cape Canaveral invece. No. Io benissimo. Una volta tanto non ti invidio che sei lì a Bari. Io sono a Genova. Tempo splendido, cielo azzurro, salone nautico. Bello, bello, bellissimo. In tua contumacia. Ce la passiamo abbastanza bene, devo dirti. Senti, parliamo con gli ascoltatori, hai voglia? Perché poi andiamo in Spagna, perché poi andiamo in Spagna perché abbiamo diversi discorsi da affrontare che sono molto interessanti tra calcio e anche politica. Paolo da Napoli, buongiorno. Buongiorno, vi saluto, siete due fenomeni entrambi. Fenomeno è Maradona, Ronaldo e Ronaldo quello the first one e Mertens. Posso fare due provocazioni? Anche tre. Pepate. Allora, la prima, secondo me in questo momento il Napoli, a mio giudizio, da 10 punti alla Juve a fine campionato. Prima provocazione, ma la penso veramente, uno, per questo per il gioco e per altre cose. Seconda, per quanto mi riguarda, Sarri con la rosa della Juventus, che è superiore purtroppo a quella del Napoli, basti pensare che il Napoli a Reina importa un panchinaro della Spagna, Albiol panchinaro, Usain nell'Albania, insomma una rosa più scadente. Per me Sarri, se va alla Juve, vince la Champions League. Mica male, ma messo allora, carico da 90, idolo Paolo, due carichi da 90. Allora, la Champions non è pronosticabile secondo me, quindi non si può oggi, nel senso che alla fine è talmente legata a delle situazioni aleatorie che... No, ma però Piero, rimani in tema, come ti diceva la maestra quando era il tema, il Napoli da 10 punti alla Juventus a fine campionato, Sarri se va alla Juventus con questa rosa vince la Champions League, non lo so neanche io. Stavo rispondendo io, ti dico, il Napoli secondo me in questo momento il campionato e i famosi 10 punti, 5 punti, 2 punti, quello che saranno è una gara di regolarità. Quindi grande alleanza Napoli in questo momento che un grande classico dell'erotismo, non ti sento, ti richiamiamo. Aspetta, ti richiama De Luca. Intanto io parlo con Nicola da Milano. Sì, buongiorno a tutti. Niente, volevo appunto rallacciare al Napoli. Sarri è un grande allenatore, ma Champions vince la Champions e va alla Juve. Ma Sarri contro il Shakhtar Donetsk ha fatto riposare Mertens. E capisco che far riposare i giocatori è obbligo a un certo punto, ma io col Benevento schiero Milik e tengo Mertens per la Champions. Non faccio giocare Milik in Champions, sì. e Mertens non mi servono 6 gol al Benevento, posso farne anche 3-4, non è quello l'importante. Quindi Sarri secondo me è grandissimo, ma qualcosina, qualche punto di vista deve migliorare. E un'altra cosa, l'ultima, Inzaghi ha detto bene che i tre infortunati è stata la massata finale, ma è quello appunto il punto nevralgico per vincere un campionato, cioè avere la panchina lunga come quest'anno il Napoli ce l'ha obiettivamente. Grazie a tutti, arrivederci. No, Nicola, grazie a te, lo penso anch'io, l'ho detto un milione di miliardi di volte, cioè non ho capito il turnover in questo di Sarri, che evidentemente si sta ancora allenando sul turnover. Non ho capito queste scelte. Vai a giocare con lo Shakhtar Donetsk, che è una signora squadra in Champions League, lì sì è un torneo breve, ti servono i tre punti. Poi col Benevento comunque vinci anche con un paio di ragazzi da primavera. Poi giochi con la Lazio ieri sera benissimo, però è a 3 giorni di distanza dal Benevento, quindi questo giro di valzer non l'ho capito nemmeno io onestamente, però Sarri avrà le sue ragioni. Intanto io voglio andare in Spagna, dove stanno succedendo cose turche. Barragán dice che lo vuole gestire lui questo pallone, crossa verso Sanabria, Toni Sanabria gela il Bernabéu, porta avanti il Betis al 94esimo. È il signor Filippo Maria Rizzi, buongiorno, buonas tardes. Anche buona tarda in catalano. Buona tarda, sì. Il mio personale insegnante di spagnolo. Allora, Filippo, cose turche in Spagna. Allora, Real Madrid. Possiamo partire da dove vuoi, ma io partirei dal fatto che ieri sera il Betis Siviglia ha fatto la pelle al Real Madrid al Santiago Bernabéu, 0-1, gol di Sanabria che abbiamo sentito raccontare, gol nel finale di partita. Il Real Madrid non segnava, cioè segnava in casa, timbrava il cartellino a Santiago Bernabéu. Prima ha detto Giorgio De Luca, mi sono dimenticato, 76-77 partite. No, sono 73 partite di seguito in generale, te lo 76, dico io, 73 partite, ecco. Ma non in casa, in generale proprio. Esatto, timbrava sempre il cartellino. Ieri arriva il Betis di Sanabria, segna alla fine, Real meno 7 dal Barça, non esattamente il miglior inizio di stagione della storia dei Blancos. No, possiamo anche dire 2 punti su 9 in casa, se vuoi, perché questa sconfitta arriva dopo 2 pareggi contro il Levante e il Valencia. E qui è il trionfo di Filippo Maria Ricci, che da anni vi dice che non ci sono solo 2 squadre, il campionato della Liga è difficile, tutti possono vincere, poi magari perdono 5. Ma non dire sciocchezze, chi può avere, possono vincere in 2-3, dipende dall'Atletico, dai. Perché è un grande campionato. Sai come diciamo tutti Milano, bene. Se non è, tu che sei romano, se non è Zuppo e Pan Bagnato. No, ieri, caro signor Genta, il Betis poteva anche perdere 4-0. Però ha vinto 1-0, questa è la bella, perché tu li dovevi vedere, questi qua sono 4 scalzacani, perché questo sono, e giocavano in difesa, uscendo palla al piede, come se fossero il Milan di Sacchi, una cosa spettacolare. È chiaro che tante volte hanno rischiato, cioè potevano prenderne, Real Madrid ha preso 2 pali, ha avuto, Adana ha fatto delle parate che quando era Real Madrid non le ha mai fatte, forse però nemmeno tu al Cagliari. Sai meglio di me, sei lì, ormai da quanti anni sei lì? 11. Benissimo, tu sai benissimo che una partita come questa normalmente finisce 7-1, 6-0, una roba così. Sì. Però questa è la bellezza, che possa finire, diciamo nell'80% dei casi finisce 6-0, però c'è un 20%, forse ho esagerato, mi sono allargato, un 15% che finisca 1-0 per questa squadra. Perché? Perché provano a giocare. Attenzione, qua c'è una storia, perché Quique Setién, che è l'allenatore del Betis, l'anno scorso con la Spalmas, altra squadra appunto di Pizza e Fichi, 2 volte ha pareggiato con Real Madrid, che ha vinto tutto, perché prova a farli giocare e a volte funziona, a volte no. L'altro giorno il Barcellona è uguale, alla fine quanto ha vinto? 6-1, 6-0, era una partita, però ha rischiato anche il Barcellona. E sono squadre che contro lei Barrera, ci provano sempre, e questa è la bellezza, perché ti fa crescere l'intero campionato, ti fa crescere l'intero movimento. Io, questo è il mio cavallo di battaglia, che ripeto così. Poi voi pensatela come vi pare, però è bello da vedere. Sì, allora parliamo di un'altra cosa che a me invece affascina molto, cioè la questione catalana. Catalogna, quello che ho detto, buona tarda. La situazione è molto grave. Allora, la situazione è molto grave, è molto grave, molto interessante e con molte implicazioni. Esatto. Referendum per l'indipendenza della Catalogna, la polizia di Madrid, e io mi ricordo sempre la frase di, te la ricordi quella frase di Piqué? Adesso veniamo a prendervi la coppa a casa del vostro re, te la ricordi? Come no, è veniamo chiaro, a prendere la coppa a casa del vostro re. Bene, tanto per chiarire, io quella frase lì ce l'ho stampata in testa, e per questo Piqué è un giocatore che ammiro tantissimo. Polizia spagnola che fa irruzione nella sede del... sai meglio di me, lo sanno tutte le persone mediamente informate. 14 funzionari, cioè fermati, alcuni rilasciati, comunque perquisizione, ritirate 10.000 schede elettorali. Allora, la cosa è molto più complicata. Io oggi l'ho letto tutti i giornali italiani, ci sono delle cose molto molto interessanti. Quello che manca un po', perché tutta gente che scrive dall'Italia, quello che manca qui è che io ti posso, diciamo, raccontare, vivendo tra Madrid e Barcellona, è che il paese è spaccato. Diciamo, se fossimo stati nei Balcani, qui eravamo già a mitragliette, questo era la sera. Essendo qua un paese, diciamo, diverso per concezione, per struttura, per storia, però l'odio tra le due entità è profondissimo e non si risana. Cioè, indietro non si torna. E adesso diciamo, come si fa ad andare avanti? Perché tu prima hai citato... Spiegami questo, cioè parlando in termini politico-sportivi, Filippo, il peso specifico che può avere il Barcellona in questa vicenda, perché il Barcellona ha fatto un comunicato ovviamente sostenendo l'indipendenza della Catalogna. Attenzione, no, questo è molto grave, non sostiene l'indipendenza, sostengono il diritto di scelta. Il diritto di decisione. Siamo precisi su queste cose che sono. Però il referendum è illegale, Carlo. Il referendum è illegale, quindi attenzione. Perché il referendum è illegale. Benissimo. Non sostengono allora, l'indipendenza, però questa è una distinzione che va fatta, perché ovviamente. No, loro non è chiaro, sono... Filippo. È chiaro, ah. Phil, però allora sì, sì. Quale, la domanda rimane la stessa: quale può essere il peso del Barcellona Football Club, che sappiamo bene che cos'è, in una situazione di questo tipo? Perché sappiamo bene come calcio e politica, politica e calcio siano fenomeni, e ne abbiamo le prove anche in Italia, senza usare parafrasi, siano due fenomeni che possono... Smuovere la io continuo a sostenere che calcio e politica sono le due cose che portano gli italiani, gli spagnoli, gli argentini, il mondo a ragionare con la pancia. È un discorso molto interessante che voglio approfondire dopo il traffico per non andare di corsa. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe, tutti convocati. Allora Filippo, chiudiamo questo discorso. Peso, ripeto, il peso specifico, il peso politico del Barcellona, che il Barcellona può avere nella vicenda catalana. Allora, due cose. La prima, la frase di Vázquez Montalbán, che definì il Barcellona l'esercito disarmato della Catalogna. E questo già mi sembra indicativo. Me la ricordo. Questi anni 60, no? Quindi poi siamo arrivati nel 2017, e così. Seconda cosa, in questi giorni, nell'ultimo mese o anche più, il silenzio del Barcellona sulla questione del referendum era stato notato, perché il Barcellona non può pretendere di non dire nulla. No, certo. E ieri, infatti, quando è successa questa cosa, il comunicato del Barcellona è stato il primo, è arrivato prestissimo. E di nuovo loro quindi vogliono, diciamo, difendono il referendum, che però è considerato illegale, e qui si aprono una serie di scenari. Perché, voglio dire, il presidente della Liga, Tebas, ha detto che in caso di indipendenza il Barcellona e le squadre catalane giocheranno nella Liga catalana. Però ovviamente tu mi puoi dire, ma io non vedo, cioè il primo a protestare sarà Florentino Perez, perché non può pensare che non ci sia più il classico. C'è una perdita di indotto nella Liga. Ma non stiamo parlando di calcio, stiamo parlando di altre cose. Esatto. Sì, ma poi è evidente. Se si arriva a questo, è chiaro che il Barcellona non esce dalla Liga, non va a giocare il campionato bulgaro. Però se si arriva a una spaccatura violenta, poi magari il Barcellona qui a Madrid non può venire a giocare perché si rischiano i morti. La situazione è piena di incognite, è tutto da vedere, perché io, probabilmente il referendum non si farà perché è illegale e così. Però per non farlo, Maschio è un club. Però adesso, per esempio, guarda, sabato una partita spettacolare, c'è Girona-Barcellona, e Girona è stata la seconda squadra che si è pronunciata a favore del referendum. Abbiamo due squadre che sono a favore del referendum, che si sfidano. E qui però io ti dico, io ti posso raccontare passo per passo, ma il finale non lo sa nessuno, eh? Guarda, non lo sa nessuno, però è una vicenda meravigliosa, è una vicenda interessantissima. È rischiosa, Carlo, Ma Filippo, rischiosa finché vuoi, però per noi giornalisti che dobbiamo raccontare le cose, è una vicenda... Siamo italiani, quindi alla fine di un'altra parte. Però ci spiega molte cose anche sul peso specifico, appunto, che il calcio enorme Meschia un club può avere su vicende molto più grandi del calcio, di noi e insomma degli equilibri della comunità europea, facciamo così, non mi viene un'altra espressione. Tanto torniamo a parlarne presto, perché ripeto, questa vicenda keep in touch. Filippo, assolutamente. Va bene, ciao Filippo. Adesso vado a parlare di Valentino Rossi invece, perché a proposito, Aragon, rimaniamo in Spagna, perché lì speriamo tutti di vedere Valentino che torna in sella alla Yamaha, ha fatto i test a Misano e lo sappiamo, domenica si corre Aragon, adesso serve solo una firma dei medici sul certificato per rivederlo in sella. The Voice, Roberto Ungaro, ciao. Ciao Carlo, è arrivata la firma. Pochi minuti fa c'è stato l'ok della Dorna. Sì, è arrivata. Abbiamo avuto fortuna. È arrivato l'ok, quindi vuol dire che Valentino domani, SP1, proverà e lì, solo lì, capirà se sarà in grado di fare questa gara. Prima hai detto che il calcio e la politica muovono la pancia degli italiani. Io ti dico una cosa, che la pancia di un pilota la muove solo un gesto, correre. perché un pilota vuole correre. E quindi è vero che vederlo da fuori, questa scelta di provarci anzitempo, quindi ad Aragon, può essere criticata, ma Valentino è un pilota come tutti gli altri. Ricordiamoci anche il passato, Grammini nel 92, stessa gamba, Lorenzo il giorno dopo del Aragon. Si rompe la clavicola ad Assen il sabato pomeriggio, vola a Barcellona, si fa operare, gli piantano una placca di titanio nella spalla e il giorno dopo, ultimo, parte dalla corsia dei box e corre. Questo è un pilota, è una ragione di vita, correre è la propria esistenza, non farlo vuol dire non vivere. So che da fuori è una cosa incomprensibile e uno può pensare alle conseguenze, ma un pilota. Poi ti dicono perché torna Valentino, tanto il mondiale ormai è sfumato, tanto ormai è lontano. Perché torna? Perché è un pilota. Se no non vive, lui corre quindi vive. È questa l'equazione di un pilota, e solo chi ha fatto anche una garetta dell'oratorio può capire questa cosa, perché la tua esistenza è rapportata solamente a quello. Vedere gli altri rimanere a casa è una sofferenza immane, molto più di quello che potrebbe sentire la gamba. E quindi so che è una visione un po' strana da fuori, e i non piloti o chi non frequenta le corse fa fatica a capirlo. Ha già una certa età, è lontano dal campionato, 42 punti, chi glielo fa fare? Ma è un pilota, Valentino più di altri, e quindi io non vedo nessuna stranezza in questa sua scelta. Ma io neanche, Roberto, però vabbè, noi siamo animali strani, pure noi che abbiamo quella malattia. È così. Robby, ti ringrazio, ti abbraccio, ci sentiamo a presto. Te, un saluto, ciao Roberto, ciao. Ungaro. Allora, adesso sì, chiudo un attimo, perché prima devo dare un appuntamento importante per domani, perché domani, oggi siamo a Genova, domani saremo nel nostro studio a Milano, perché ci arriverà sul tavolo la Champions League, quella vera, non si può dire in carne e ossa, in argento, portata per una mano da Cafu e per l'altra mano da Christian Kivu, che l'hanno vinta. L'appoggeranno sul tavolo, saranno lì con noi dalle 14 alle 15.30 per questo appuntamento speciale. Invito tutti gli ascoltatori a chiamare per parlare, non tanto con me o con Pardo, quanto con loro. Dunque, stiamo in contatto, ragazzi. Domani tutti convocati con la Coppa dei Campioni e anche la diretta video. Ciao! Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!